Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano con questa ouverture che avrete sicuramente riconosciuto dal barbiere di Siviglia, di Gioacchino Rossini. Iniziamo l'incontro di oggi, Gioacchino Rossini, perché parliamo con una persona che con Rossini è conterraneo, Gianfranco Tonti, buongiorno. Buongiorno. Gianfranco Tonti è presidente di Industrie IFI, che sta, se non sbaglio, per Industrie Frigorifere Italiane, una media grande industria di, in quel di Pesaro, localizzata dove precisamente? Esattamente a Tavuglia. Ma quindi che è più la patria di un Rossi che di un Rossini. Vero, però insomma è una bellissima collina che guarda sia sul pesarese che sul riminese e quindi ha delle motivazioni importanti. Quindi una industria nelle Marche, tra l'altro Gianfranco Tonti è marchigiano d'onore perché mi diceva è residente comunque in Romagna. Quindi residente a? A Cattolica, che esattamente, provincia di Rimini. Quindi ecco, facciamo un po' una carta d'identità di questa Industrie IFI. Brevemente, nel 1962 è sorta la IFI come uno dei tanti artigiani che si occupavano di costruire arredamenti, ma assolutamente come il sarto in quei tempi costruiva i vestiti. Bene, di lì a pochi anni, però, seguendo la scia di Salvarani sul fronte delle cucine d'abitazione e seguendo il percorso di Lebole, che cominciò a portare il primo prêt-à-porter, bene, noi abbiamo ritenuto che anche il banco bar potesse diventare un prodotto industriale. Ci abbiamo creduto fortemente e abbiamo presentato al mercato la nostra proposta. Il mercato ha detto: a cosa serve questo? A nulla, perché ogni volta ogni locale ha le sue caratteristiche e pertanto non può andare bene nel modo più assoluto. Devo dire che tutto il percorso che ha fatto la IFI in questi 50 anni, perché quest'anno ricorre il 50° genetliaco, bene, lo dobbiamo a quella scelta effettuata alla fine degli anni 60. Una scelta di essere artigiani ma di fare le cose anche in grande serie, quindi ecco. Riuscire a coniugare il fatto di essere delle cose che sono fatte ad hoc, su misura, diciamo, con invece una produzione, se non di massa, almeno con numeri abbastanza elevati. Questa è stata una scelta pensando a chi poi deve utilizzare i nostri prodotti ed è stato un percorso che abbiamo sempre cercato di seguire, e cioè siamo riusciti a dare al gestore del locale pubblico dei valori aggiunti diminuendo fortemente i costi di produzione, e in quel tempo là, alla fine degli anni 60, noi abbiamo diminuito il costo medio di un banco bar, allora lo chiamavano il bancone, di oltre il 60%, ma aumentando nell'affidabilità, perché appunto per realizzare una produzione industriale abbiamo messo a punto prima un progetto, poi le attrezzature per costruire questi prodotti, e quindi l'affidabilità degli stessi è stata tangibile. Ecco, quindi è una vostra produzione, diciamo così, business to business, non è conosciuta come produzione di massa, è un'azienda comunque che ha un rilievo nazionale e internazionale, siete presenti anche all'estero ovviamente. Diciamo che da quel momento abbiamo aumentato le nostre dimensioni perché il prodotto era gradito e oggi noi lavoriamo in oltre 60 paesi fuori dall'Italia e abbiamo un organico di oltre 340 persone, collaboratori. Il nostro obiettivo, la nostra missione è quella di poter arredare per il più piccolo locale fino alla grande catena ovunque si trovi nel mondo. Ecco, mi diceva 50 anni di vita, avete festeggiato i 50 anni nelle scorsi mesi, di cui quanti lei ha passati in questa azienda? Esattamente 45, ma con tanta gioia, perché è stato veramente un percorso meraviglioso che ho vissuto al fianco di persone meravigliose, una, se posso in particolare, un uomo che ci ha lasciato nel 2009, che all'età di 100 anni e 7 mesi. quindi presidente, ma una figura che ha saputo interpretare l'impresa nel segno dei valori e non nel segno del business o comunque dell'interesse particolare. Ecco, quindi lei è entrato come impiegato, come operaio in questa azienda 45 anni fa, e come si fa a passare da operaio a presidente? Posso dire questo, che il primo incarico che ricevetti fu quello di controllare le merci in arrivo con le bolle di consegna e verificare se combinavano le quantità con quanto era scritto. Ma quel cardinale di cui ho parlato mi disse dal primo istante che avrei dovuto dire al fornitore se mancava qualcosa, ma altrettanto se ce n'era in esubero. Bene, io sono stato conquistato. Vengo da una famiglia in cui mi hanno insegnato i valori, mi hanno insegnato che meglio un piatto di insalata non condita piuttosto che nutrirsi di cose non proprie. Per cui da quel momento in poi ho detto di sì ad ogni volta, ad ogni chiamata, a lasciare l'incarico per prendere un altro e così via, fino ad accumulare una serie di esperienze, non so chi è che ha fatto la regia di tutto questo, una serie di esperienze che mi ha permesso nel 98 di dire di sì all'assunzione, diciamo così, della presidenza, dell'incarico più elevato, quindi una responsabilità diretta in un'impresa che è ormai cresciuta e diventata, possiamo dire, forse una piccola multinazionale, essendo, come diceva, presente in molti paesi del mondo. Qual è stato appunto il punto di forza? Indubbiamente lei parlava di questa dedizione, di questa capacità, di questa qualità, il punto di forza, il punto distintivo in fondo di un'azienda come la vostra? L'innovazione. Come dicevo prima, il nostro compito è quello di creare e di costruire valori aggiunti per coloro che usano i nostri prodotti ovunque nel mondo. Per cui ricerca, innovazione, uniti al design e all'incremento qualitativo permanente, erano e sono i nostri percorsi quotidiani. E riteniamo peraltro che se non facciamo questo non esisteremo nel futuro. Quindi non avrà senso la nostra presenza. Anche in prodotti tradizionali, che possiamo dire quasi eterni, quando pensa al balcone del bar, dice, vabbè, cosa c'è da innovare in un balcone del bar? Eppure si può innovare, anzi si deve innovare in questi ambiti. Ecco, come si può innovare? Quali sono, per esempio, magari solo per curiosità, qualcuna delle sofisticazioni che avete portato ai vostri prodotti? Bene, noi in realtà tutte le nostre attività le rivolgiamo alla realizzazione di tecnologie e arredamenti per i locali pubblici dove si celebrano due riti italianissimi, l'espresso e il gelato artigianale. Bene, per parlare del bar, noi dall'86 al 91 abbiamo portato avanti un progetto innovativo, molto importante, molto impegnativo. Abbiamo portato il freddo ventilato in una cella del bancone e questo permette di refrigerare quello che è contenuto in un tempo inferiore ad un terzo rispetto alla refrigerazione statica. Ecco, abbiamo creato le porte e i cassetti magnetici per alleviare la fatica di chi per tutta la giornata deve aprire e richiudere questo e altre cose del genere. Quindi un qualcosa a cui abbiamo cercato di dare davvero concretezza. Quindi una vicinanza anche ai bisogni del cliente, di quello che è l'utilizzatore, cercando di mettere insieme un po' l'intuizione e un po' la ricerca. Questa è un po' la ricetta, forse. Assolutamente sì. Noi abbiamo costruito in questi decenni un team veramente importante all'interno dell'azienda, fatto di ingegneri, geometri, periti elettronici, termodinamici, perché facciamo il freddo, per cui quando si tratta addirittura di freddo in bassa temperatura per il gelato è qualcosa che non è proprio completamente banale. Ecco, questo team ha sempre lavorato al fianco di industrial designers importanti, i quali sono dotati di quel grand'angolo che, unito alla capacità del far bene le cose che siamo riusciti a creare all'interno dell'azienda, ci ha permesso davvero di dare risposte anche a bisogni non espressi. Ecco, quindi il design è importante l'ingegneria. Ecco, si trovano in Italia, a Pesaro, a Tavuglia, dei giovani capaci, preparati, che vengono dalle università, che riescono a entrare in aziende come la vostra e dare un apporto di novità, di costruzione, di capacità di innovativa? Assolutamente sì. Noi, oltre ad avere questo team che considero un patrimonio per la nostra impresa, noi ci avvaliamo di collaborazioni con le università, per esempio con la nuova Accademia delle Belle Arti di Milano, con l'Università di Camerino, la Facoltà di Ascoli Piceno di Architettura e Design. Bene, da questi luoghi vengono le idee fresche, le idee nuove. Per cui sono i giovani su cui puntiamo per vedere di disegnare il nostro futuro. Ecco, il design è un vostro punto di forza. Avete vinto qualche premio sul design proprio. In realtà, proprio nella creazione di un valore aggiunto per il gelatiere artigiano, abbiamo ottenuto la segnalazione del Compasso d'Oro e nel 2008 in Venaria Reale, diciamo, la nostra vetrina, denominata Tonda, che trasforma completamente i canoni che sono durati per 60 anni nella esposizione e nella vendita del gelato artigianale, ed è un qualcosa che ci dà veramente grande soddisfazione e che è presente come prodotto in questo momento in 60 paesi fuori dall'Italia. Ecco, il gelato forse anche un po' la stagione, però sembra un periodo, al di là dell'estate di quest'anno particolarmente calda, soprattutto all'inizio, ecco, sembra che ci sia quasi un'esplosione di gelaterie nelle città. Questo favorisce il vostro business? Sicuramente sì. Devo dire che c'è un incremento nei consumi. Il gelato artigianale, quando è fatto con professionalità e con ingredienti eccellenti, credo che sia un dolce insuperabile e che è sempre più apprezzato anche nelle nuove aree cosiddette emergenti, che nel frattempo sono anche emerse, per cui è una opportunità per la filiera che c'è in Italia, che è la più importante che esista al mondo. Ecco, quindi possiamo dire che la vostra è un'industria un po' anticiclica o aciclica, insomma, che sente un po' meno delle crisi che ci sono, crisi che da qualche anno stiamo vivendo, complessivamente l'economia sta vivendo. È vero, in questo momento è il mercato italiano che manda segnali negativi in questa fase, però noi riusciamo, almeno fino a questo momento, a sopperire con un impegno che stiamo profondendo per aumentare la presenza sui mercati esteri. Quali sono i mercati più promettenti sul profilo internazionale? Ma in questa fase vediamo il Nord Africa molto dinamico, vediamo la penisola arabica e il sud dell'America, oltre ovviamente la Cina, nella quale abbiamo portato i nostri prodotti, Cina, Giappone, e proprio questa Tonda, vetrina gelateria di cui accennavo poc'anzi, è una specie di ariete che ci permette di aprire nuovi mercati. Qual è la difficoltà maggiore che ha una media azienda italiana nell'andare all'estero? È la difficoltà che ci sentiamo un po' soli e che soprattutto quelle che sono le normative doganali emanate dalle camere di commercio sono assolutamente arcaiche. Sono arcaiche e vanno riscritte completamente. Sì, c'è stata recentemente un'indagine della Banca Mondiale che diceva appunto che le aziende italiane hanno dei tempi più lunghi e dei costi maggiori rispetto a aziende tedesche o francesi, quindi abbiamo uno svantaggio competitivo sotto questo fronte. Credo proprio di sì, perché siamo soli, ogni impresa è sola o poco più, ad affrontare tutte quelle che sono le intemperie di andare su mercati esteri. Devo dire che nel caso nostro abbiamo un vantaggio grazie ancora una volta a Tonda, questa vetrina, che è stata selezionata dalla Farnesina quando nel 2009 ministro degli esteri Frattini, unitamente al Ministero dei Beni Culturali e al Ministero delle Attività Produttive, ha deciso di creare una collezione con 20 prodotti che possano rappresentare la capacità italiana di fare design tecnologicamente avanzato. Bene, siamo stati selezionati e siamo alla nona tappa. Abbiamo fatto Vancouver, abbiamo fatto il Sudafrica con i mondiali di calcio, abbiamo fatto Istanbul, abbiamo fatto Tel Aviv, recentemente Helsinki, la Tunisia. Le tappe che lei ha fatto tutte di persona. Tutte tappe che ho fatto di persona. Ecco, allora Gianfranco Tonti, non come presidente di IFI, ma come persona, in questi viaggi che ha fatto per il mondo, se dovesse scegliere un posto dove andare a vivere? Vancouver di sicuro. Vancouver, come mai? Meravigliosa. Ci sono andato nel mese di gennaio, quando c'erano appunto le Olimpiadi invernali. Ebbene, c'erano i fiori di San Pietro fioriti. Ecco, cosa che ancora quando sono ritornato dalle nostre parti non erano sbocciati. E se non avesse fatto l'imprenditore nel settore dei mobili per bar, delle gelaterie, cosa avrebbe fatto Gianfranco Tonti? Ma mi piaceva molto la lettura, in qualche modo sarei stato magari. No, il giornalista no, ma mi sarebbe piaciuto continuare a vivere nell'ambito letterario. Credo ancora oggi che una parte del nostro lavoro, se riesce, è perché cerchiamo di farla derivare dalla cultura. Questo aspetto della cultura industriale è certamente importante, lo riprendiamo magari nella seconda parte del nostro colloquio. Ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico. Incontri. Ancora con l'ouverture del Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, continuiamo il nostro incontro con Gianfranco Tonti, presidente di Industria IFI. Industria IFI, un'industria specializzata nel settore dei mobili da bar, dei mobili per gelateria, che ha sede a Tavuglia, alla periferia di Pesaro. Forse si offendono, Tavuglia è quasi più importante per essere il luogo di nascita e di residenza di Valentino Rossi, due grandi protagonisti per aspetti diversi della vita italiana, Gioacchino Rossini e Valentino Rossi. Ma anche una media impresa come Industria IFI è certamente una realtà importante, un'impresa, mi diceva Gianfranco Tonti, 400 dipendenti, certo, che ha prodotti che vende in 60 paesi del mondo, specializzata in un settore ovviamente business, non di largo consumo, quindi non è forse conosciuta come i grandi marchi di largo consumo, ma è un ambasciatore anche italiano nel mondo con i suoi prodotti. Peraltro mi diceva nella prima parte che proprio uno dei prodotti dell'Industria IFI è stata scelta tra i 20 prodotti caratteristici del design italiano, un design che è un elemento importante sia dell'italianità sia di un'industria come la vostra. Tra l'altro Gianfranco Tonti ha anche un incarico di ambasciatore del design. In realtà da dicembre sono stato eletto presidente dell'ADI Marche, Abruzzi e Molise, e in questa veste mi ritrovo insieme al comitato direttivo a dover parlare, dialogare con gli imprenditori che nel nostro territorio da un po' di tempo hanno perso quella verve che hanno fatto delle Marche una regione meravigliosa sul piano proprio socio-economico. Bene, il nostro compito è quello di dirgli di riprendere energia, e questa energia la possono esprimere proprio cercando di mettere assieme quei valori di ricerca e di design. È molto importante, non un design falso, un design fatto solo di colore, ma un design concreto, ed è così soltanto che si possono rimettere in moto in maniera energica le attività manifatturiere. La manifattura è importantissima nei nostri contesti. Ecco, le Marche erano uno dei centri vitali di quella via adriatica che negli anni 80 e 90 è stata uno dei traini dell'economia italiana, fatta appunto di distretti industriali, tra l'altro quello di Pesaro, dei mobili, non solo mobili da cucina, ma anche altri tipi di mobili, era abbastanza insediato, diffuso, e ci sono ancora indubbiamente industrie molto famose in crescita in questo settore, così come l'industria calzaturiera, come l'industria degli strumenti musicali, che hanno saputo anche rinnovarsi in parte, poi sono stati successi e insuccessi, indubbiamente. C'è ancora questa via adriatica, si può parlare ancora di sviluppo diffuso lungo quest'asse economico? Dico di sì. Mentre alcuni effettivamente hanno perso un po' d'animo, gli imprenditori sono già in movimento da tempo. Pertanto quello che è stato, quell'impegno che hanno profuso nel passato, non lo lasceranno cadere. Non v'è dubbio che la maggior parte degli imprenditori che noi incontriamo non ha idea di fare le valigie e partire da queste nostre contrade, ma di rimanere lì. D'altro canto, se posso dirlo, anche la IFI si è creata un suo sito proprio in Tavuglia con 20 ettari di terreno, un progetto di un importante architetto già approvato, opere pubbliche già affrontate, pertanto non appena il mercato ci manderà buoni impulsi, noi avvieremo le attività di costruzione. Perché questo? Perché tutti i nostri collaboratori, l'insieme di artigiani, di consulenti, di piccolissime imprese ci hanno portato fin qua. Pertanto è un patrimonio irrepetibile ovunque nel mondo. Quindi siete pronti a una nuova sfida, a una nuova stagione di crescita? In questo periodo state un po' cercando di mantenere le posizioni, soprattutto, mi sembra di capire. È proprio così. E in corso abbiamo progetti che sappiamo vedranno la luce di qui al 2015, ma solo così pensiamo di poter alimentare le ragioni per esistere in futuro. Ecco, non solo la vostra industria, Industria IFI, di cui Gianfranco Tonti è presidente, ma diciamo così la media impresa italiana, che è un po' la spina dorsale dell'economia italiana, di cosa avrebbe bisogno? bisogno per veramente innestare questo spirito, questa possibilità di crescita di cui si parla tanto ma di cui non si vedono tracce per ora. L'industria italiana manifatturiera deve d'ora in avanti fare prodotti straordinari, nel senso che debbono avere dei contenuti, delle capacità di, diciamo così, di soddisfare i bisogni di chi poi li usa di tipo straordinario, perché i prodotti ordinari ormai sappiamo che vengono realizzati in quella parte del mondo in cui le persone sono disposte a scambiare il loro lavoro per poche centinaia di euro. Questa non è la prospettiva che abbiamo noi in Italia. Bene, dobbiamo farne un elemento di forza, perché proprio cercando in quelli che sono i bisogni che ancora le persone non hanno espresso, noi possiamo andare a sviluppare i nostri progetti e le nostre attività future. Se invece si riferisce a quello che è lo scenario che circonda l'attività o l'industria, devo dire che molto importante sarebbe un contributo, ma non in denaro, ma per esempio in credito d'imposta, molto importante, perché il tessuto manifatturiero italiano è fatto di piccole imprese e per fare innovazione, design, ricerca e qualità incrementale occorrono sì risorse umane importantissime, ma anche mezzi finanziari, e il ritorno di questi investimenti non è certamente di tempi brevi. Pertanto questo rappresenterebbe un contributo reale alla ricerca e alla ripresa della manifattura italiana. Unitamente a un'altra cosa, se posso aggiungere, Prego. Cioè una giustizia che funzionasse bene e non continuasse a sembrare costruita a favore dei colpevoli. Ecco, uno scenario di certezze, insomma, in cui l'imprenditore possa programmare a medio e lungo termine, non solo a breve termine, cercare appunto di avere anche delle certezze sul fronte appunto della giustizia, sperando di non doverne ricorrere, ma ogni tanto è anche indispensabile ricorrere alla giustizia anche sotto lo scenario finanziario. Anche qui forse il credito dovrebbe fare qualcosa di più per le imprese. Ma dunque, noi come impresa, come IFI, non abbiamo mai distratto il nostro patrimonio, pertanto abbiamo la grande opportunità che quando ci presentiamo nei piani alti di banche, di istituti di credito, non troviamo mai le porte chiuse. Ma al di là di questo, io non ho motivo per ritenere che le banche dovrebbero dare credito là dove l'imprenditore dimostra di non aver fiducia della sua impresa. Ecco, questo non v'è dubbio. Poi non sta a noi indicare, ma al governo, quali possono essere gli elementi per rimettere in moto così una nuova stagione anche del credito. Beh, insomma, gli imprenditori comunque hanno una responsabilità anche di essere un po' gli ispiratori anche di misure che possono aiutare l'impresa. Ecco, lei diceva, noi siamo a Tavuglia, siamo contenti di esserci, abbiamo dei progetti per Tavuglia. Non è mai stato tentato di delocalizzare, di andare magari vicino nell'est Europa o in Cina o così via? No, restate marchigiani. Assolutamente no, non abbiamo mai avuto questa tentazione. Riteniamo che il gruppo di uomini all'interno dell'impresa, ma anche unitamente a quelli all'esterno della nostra impresa, ecco, riteniamo che possa assicurarci uno sviluppo futuro. Ecco, marchigiani, abbiamo detto, lei l'abbiamo ricordato prima, è stato anche nominato marchigiano d'onore. Qual è la caratteristica più forte delle Marche? Credo che sia il territorio e sia il senso di appartenenza a questo territorio. È estremamente importante, tra le altre attività che ogni impresa compie, non dico tutte, ma è quella di dedicare una parte delle proprie risorse al territorio. Anche la cultura, quella che dicevamo appunto alla fine della prima parte, una cultura diffusa che poi è anche qualcosa che aiuta a vivere meglio, aiuta a vivere con magari con più piacere, con più consapevolezza, con più convinzione di dover dare la propria passione, la propria opera anche per l'impresa o per appunto per la società. È un contributo che l'impresa può dare e sta dando. Se posso fare un riferimento ad un'iniziativa che stiamo portando avanti da 11 anni, l'abbiamo chiamata Porte Aperte ai Giovanissimi, e proprio ieri hanno iniziato figli o nipoti dei nostri collaboratori un'esperienza di lavoro fino a quando l'azienda non chiuderà per ferie. Ovviamente non potranno muovere macchinari, non potranno che stare con un senior che viene assegnato a ciascuno di loro, ma questo viene fatto per fargli avere la cultura dell'ambiente di lavoro, unita poi a quella della scuola, e gli permetterà di fare qualche scelta in maniera più oculata. Ecco, per capire che la fabbrica non è un demone, ma è qualcosa in cui si lavora, si vive, ma si costruisce qualcosa anche che ha della creatività al suo interno, non è solo montare dei pezzi. Devo dire che noi abbiamo cercato sempre di perseguire gli obiettivi aziendali attraverso comportamenti ad alto profilo morale. La nostra azienda non inquina aria, non inquina l'acqua, non inquina la terra. E fino a questo momento i collaboratori che se ne sono usciti per i più disparati motivi, bene, tra loro non ce n'è stato ancora uno che si sia rivolto ad un avvocato o al sindacato per vedere difesi i suoi diritti. Inoltre mi piace dire che al territorio noi pensiamo sul fronte sociale, sul fronte artistico, sul fronte culturale. Recentemente, proprio nel maggio dell'anno scorso, è stata inaugurata una pista ciclabile che abbiamo donato alla città di Pesaro, che corre per 4 chilometri lungo il fiume Foglia che bagna appunto quella città. Quindi ecco, anche un impegno, quello che si chiama la responsabilità sociale dell'impresa, è qualcosa per essere presenti al di là appunto dell'interesse immediato. E quindi abbiamo parlato all'inizio di questi due protagonisti, Rossi e Rossini. Come appassionato di moto mi sento più vicino a Valentino Rossi forse, lei è forse più appassionato di lirica o di motociclette? Ma devo dire che la motocicletta, e Valentino Rossi è diventato un eroe anche adesso che non vince, perché ha saputo abbinare questa grande capacità come campione, ma ad un'umanità che non lo fa divo. Siccome noi sosteniamo dall'inizio quella manifestazione Tavuglia Vale, ecco, vale come Valentino, ecco, infatti, diciamo che abbiamo avuto modo ogni volta di vivere la serata vicino a Valentino. Bene, Valentino non è un divo, sta gioiosamente con i suoi amici, e questo è anche, diciamo così, una ragione in più per vivere nell'impegno. E siccome il prete di Tavuglia non suona le campane se Valentino non vince, beh, questa metafora la portiamo anche nella nostra azienda. Quindi bisogna in un certo punto anche saper perdere, saper capire che anche una sconfitta può essere un punto di partenza. Questo non lo possiamo dimenticare mai. Ecco, quindi come ultima cosa ci avviamo in conclusione, direi in sintesi cosa riassumerebbe il suo impegno di 45 anni in un'azienda di cui appunto è entrato ai livelli più bassi, ed non dico che è uscito, è presente come presidente, e gli auguro appunto di avere tanti anni di presidenza di questa impresa con ulteriori successi. Una parola in sintesi, come la concluderebbe questa sua esperienza? Ma direi che l'esperienza la considero estremamente positiva, perché fare impresa nel modo con cui noi l'abbiamo fatta finora e intendiamo farla fino in futuro è uno dei lavori più belli che possano esistere. Grazie mille, grazie a Gianfranco Tonti, presidente di Industrie IFI di Tavuglia, in quel di Pesaro, di essere stato con noi. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Valeria Bernardi in regia, a Guido Scotti in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Ancora grazie, l'appuntamento è per domenica prossima.